Sabato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. I bambini di Pechino, Shanghai, Copenaghen, Coney Island giocano su giostre italiane. E non soltanto perché sono belle o divertenti, ma perché consumano meno energia. Avete sentito le giostre verdi ecologiche italiane? Lo sapevate? Questa è una notizia in più del grande comunicatore Renzi che va all'ONU a raccontare, insomma, che ci sono giostre italiane con cui giocano i bambini dalla Cina alla Danimarca, agli Stati Uniti. Comunicazione sempre alta di Renzi, anche se invece sulla questione della riforma del lavoro, articolo 18, diciamo, soprattutto all'interno del PD, questa comunicazione non riesce a avere tantissima presa della sinistra del PD. Di questo torneremo ancora un po' a parlare questa sera con Gianni Cuperlo, anima della sinistra, del Partito Democratico. E poi ci sono tante altre notizie che vi racconterò come tutte le sere qui dalle 21 alle 22. Una in particolare, una notizia un po' bomba, che è deflagrata poco fa, che riguarda un arresto in Vaticano. Parleremo anche di questo, parleremo dei bombardamenti in Siria e di molte altre cose. Ci sono sempre i canali per la vostra comunicazione, per i vostri messaggi, le vostre riflessioni, o gli sms al 349-238-6666, oppure c'è sempre la pagina Facebook Effetto Notte, quella non ha orari, potete andarci quando volete scrivere i vostri commenti. Partiamo allora con il riassunto della giornata. Pedofilia, arrestato ex nunzio Wesołowski, ex arcivescovo polacco, sarebbe avvenuto su indicazione questo arresto di Papa Francesco. La lotta contro l'ISIS, raid americani e degli alleati arabi in Siria, Obama sottolinea non è una guerra soltanto nostra. Il summit sul clima e i cambiamenti climatici, dichiara Obama all'Assemblea dell'ONU, sono la prima minaccia del secolo e Renzi assicura che l'Italia è pronta a dare il suo contributo. Ebola, allarme dagli Stati Uniti, entro il prossimo gennaio i casi di Ebola in Africa occidentale potrebbero raggiungere quota 1,4 milioni. Nigeria, libere alcune delle liceali rapite da Boko Haram, lo riferisce la BBC citando il ministro della difesa nigeriano. Riforma del lavoro, la minoranza PD presenta 7 emendamenti, tra questi l'articolo 18 e ne ho assunti dopo 3 anni. CISL, Bonanni lascia la guida del sindacato, domani ci sarà l'addio. La morte di Stefano Cucchi, chiesta la condanna per tutti gli imputati per la morte del giovane arrestato per droga e deceduto in ospedale, picchiato dopo l'udienza di convalida dell'arresto. E poi lo sport, torna al campionato di calcio, questa sera il Milan ci riprova ad Empoli e le ragazze della pallavolo impegnate nella sfida mondiale. E quindi partiamo da questa notizia che vi dicevo, arrivata proprio in serata, mezz'ora fa, 40 minuti fa, in Vaticano è stato arrestato l'ex nunzio, l'ex arcivescovo Josef Wesołowski, sotto inchiesta per pedofilia. L'arresto sarebbe stato realizzato secondo proprio le indicazioni di Papa Francesco. All'ex nunzio, Monsignor Wesołowski, sono stati notificati i capi di imputazione del procedimento penale avviato a suo carico per gravi fatti di abuso a danni di minori avvenuti nella Repubblica Dominicana, così ha detto il portavoce della Santa Sede, padre Federico Lombardi. E poi i raid aerei degli Stati Uniti e dei paesi alleati arabi sulla Siria. Al momento, ha detto il presidente americano Obama, non è possibile sapere quale sarà la durata delle operazioni, ma ha sottolineato soprattutto che non si tratta di una guerra solo americana. Il messaggio deve essere chiaro. L'America non è sola. In Siria abbiamo agito spalla a spalla con i nostri alleati Arabia Saudita, Emirati Arabi, Giordania, Bahrain e Qatar, governi del Medio Oriente che rigettano lo Stato Islamico. Con un discorso di poco più di 3 minuti, il presidente americano Barack Obama commenta dalla Casa Bianca l'inizio dei raid aerei in Siria contro i centri di addestramento e di comando dell'ISIS. Colpita l'area di Raqqa, roccaforte del Califfato, e le zone al confine con l'Iraq. Finora sarebbero stati uccisi circa 120 miliziani jihadisti e qaedisti. Abbiamo sventato un complotto di Al-Qaeda in Siria contro gli Stati Uniti e i nostri alleati, ha detto Obama prima di partire per l'Assemblea Generale dell'ONU. Proprio da New York è arrivata la notizia che il regime siriano era stato informato degli attacchi. Protestano Russia e Iran. La Francia dice che non cederà ai terroristi che hanno minacciato di uccidere l'ostaggio francese. Londra, forse pronta ad affiancare l'America, fa i conti con il nuovo video video del giornalista britannico rapito 22 mesi fa. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo al summit dell'ONU sul clima. Intervenendo al vertice, il presidente degli Stati Uniti Obama ha detto che la minaccia del clima è la minaccia numero uno del secolo e ha sottolineato che negli ultimi 8 anni gli Stati Uniti hanno ridotto l'inquinamento da carbonio più di ogni altra nazione sulla Terra, ma dice dobbiamo fare di più. Nessun paese, ha aggiunto Obama, può rimanere in disparte nella lotta al riscaldamento globale. E allora anche Matteo Renzi ha detto a New York noi daremo come Italia il nostro contributo e ha fatto naturalmente anche altre dichiarazioni. Sentiamo. Il 45% dell'energia elettrica prodotta in Italia proveniva da fonti rinnovabili. Il 22% delle imprese italiane hanno investito in ambiente. E pensate, le imprese che investono di più sono quelle che investono in area legata alla tecnologia verde e all'innovazione. I bambini di Pechino, Shanghai, Copenaghen, Coney Island giocano su giostre italiane. E non soltanto perché sono belle o divertenti, ma perché consumano meno energia. E allora, reduce da un incontro ieri con i giovani scienziati italiani e i giovani innovatori italiani in Silicon Valley, voglio dire a ciascuno di noi che quello che stiamo facendo non è importante soltanto per un impegno di responsabilità verso il passato, ma è innanzitutto un segno di responsabilità verso il futuro. E si parla anche di un'altra emergenza oltre al clima. Entro il prossimo gennaio i casi di Ebola in Africa occidentale potrebbero raggiungere quota 1,4 milioni. L'allarme è stato lanciato dal Center for Disease Control and Prevention, l'ente nazionale americano che si occupa di salute pubblica. Vedevo fra i vostri messaggi, per esempio sulla pagina Facebook di Effetto Note, un messaggio di Relishan che dice: la mia domanda è perché il mondo si preoccupa di una malattia che fa pochi morti quando di malaria ne muoiono milioni, che almeno abbiano la decenza di dire che essendo un virus che potrebbe minacciare l'Occidente allora ce ne occupiamo, ma dei morti in Africa non ce ne frega niente come prima, dice un ascoltatore. Però c'è una buona notizia dall'estero: sono state liberate, vi ricordate, alcune delle 200 ragazze nigeriane, 200 studentesse rapite nell'aprile scorso dagli estremisti islamici di Boko Haram. Questo riferisce la BBC, la TV inglese, citando il ministro della difesa nigeriano. E siamo alla politica italiana con il dibattito all'interno del PD sull'articolo 18. La minoranza del Partito Democratico presenta 7 emendamenti. La ditta rischia di spaccarsi o di andare incontro ad un referendum e la minoranza Dem non retrocede. Presenta 7 emendamenti al Jobs Act, incluso l'articolo 18 per i neoassunti dopo 3 anni. Scoppia il casus belli. Per il vice segretario Deborah Serracchiani la direzione del PD decide la linea e la minoranza dovrà attenersi alle regole della ditta. Per Lorenzo Guerini bisogna abbassare i toni. Non vorrei uno che alla direzione del 29 si affidasse l'ambizione di un Reader Rationem. È una direzione, un momento importante di discussione, magari anche abbassando anche un po' il tono delle polemiche. Da parte della minoranza si minaccia comunque il referendum tra gli iscritti. Per Gianni Cuperlo il partito non è una caserma, mentre Stefano Fassina risponde così sulla disciplina di partito. Il vincolo di mandato esiste, ma con chi mi ha dato il mandato, cioè gli elettori che mi hanno eletto in Parlamento il febbraio 2013. Cadono nel vuoto le parole del ministro del lavoro Giuliano Poletti, che parlava di polemiche infondate sul licenziamento discriminatorio, mentre il nuovo centrodestra avverte stop a totem ideologici. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E come vi dicevo prima, poi torneremo ancora a parlarne di questa polemica, di questo scontro così forte sull'articolo 18, sulla riforma del lavoro, con i tentativi di mediazione. Ci sarà proprio Gianni Cuperlo tra poco a Effetto Notte. Potete scrivere poi, quando lo sentirete, i vostri commenti sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666. Questo è il numero per i messaggi. Poi c'è l'addio di Bonanni, Raffaele Bonanni, che lascia la guida della CISL. Il leader della CISL, Raffaele Bonanni, 65 anni, lascia la guida della Confederazione Sindacale. Eletto nel 2006 e riconfermato nel 2009 e nel 2013, lo storico segretario annuncerà domani in via ufficiale le sue dimissioni. Sempre per domani è stata convocata una riunione della segreteria confederale con i responsabili delle categorie e delle strutture regionali. In pole position per la successione c'è Anna Maria Furlan, attualmente in carica come segretario generale. Inizia così un processo che porterà alla sostituzione del leader e al rinnovamento dei vertici, con il Consiglio Generale che si terrà probabilmente la prima settimana di ottobre. Nato a Bombe in provincia di Chieti, Raffaele Bonanni è stato alla guida della CISL per 8 anni e il suo mandato avrebbe dovuto scadere tra 6 mesi. Marcella Vezzoli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi all'estero, ci spostiamo di nuovo all'estero, il ministro della giustizia spagnolo Alberto Ruiz Gallardón, promotore della legge organica di protezione del concepito e dei diritti delle donne in gravidanza, cioè una legge restrittiva sull'aborto, ha annunciato oggi pomeriggio le dimissioni dopo che il primo ministro Mariano Rajoy, il primo ministro spagnolo, aveva confermato il ritiro di questa controversa riforma dell'aborto. E con la cronaca italiana dobbiamo parlare ancora di femminicidi, ben due femminicidi, uno vicino Brescia a Palazzolo sull'Oglio e l'altro a Canino vicino Viterbo. Uccisa da almeno 20 coltellate nella sua camera da letto, è successo a Palazzolo sull'Oglio nel Bresciano. La vittima è Daniela Bani, 30 anni, due figli di 5 e 7 anni. Il corpo è stato trovato dalla madre nella tarda serata di ieri, accanto l'arma del delitto. Il marito, un tunisino di 37 anni, risulta irreperibile. Secondo gli inquirenti sarebbe già nel paese nordafricano, partito ieri sera da Milano Linate. Nei giorni scorsi risulta che abbia ritirato anche una cospicua somma di denaro dal conto in banca, dettagli che farebbero di lui il principale sospettato dell'omicidio della moglie. Una gelosia folle invece sarebbe alla base di un'altra storia di violenza contro le donne, un altro omicidio avvenuto nella tarda serata di ieri a Canino, in provincia di Viterbo. La vittima, una 47enne di origini romene, uccisa dal convivente, quarantenne, anche lui romeno con precedenti penali, era convinto che la sua compagna avesse una relazione extraconiugale. L'uomo, interrogato nella notte dai magistrati, ha sostanzialmente ammesso le sue responsabilità e ora si trova nel carcere di Viterbo. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Si torna a parlare del caso Cucchi perché è stata chiesta la condanna per tutti gli imputati per la morte del giovane arrestato per droga e deceduto in ospedale Stefano Cucchi, picchiato secondo inquirenti dopo l'udienza di convalida dell'arresto. Anche è stato chiesto l'inasprimento delle pene per 5 medici condannati in primo grado, altri furono assolti. La difesa dice sono stati aggiunti nuovi dubbi e la sorella di Stefano Cucchi dice il pestaggio è stata la negazione dei diritti umani. Parliamo però anche di tasse sulla casa, questo è molto interessante, molti si chiedono, siccome ci abbiamo capito tutti ben poco, come si pagherà questa TASI. Bene, domani sul Sole 24 Ore ci sarà uno speciale di 20 pagine, TASI, le regole per pagare, un focus con tutte le indicazioni pratiche per affrontare preparati questa rata di ottobre. E in chiusura pagherà anche lui la sua TASI, ma intanto ci deve parlare di calcio e anche di pallavolo, Dario Ricci. Ciao Dario. Sì, prima di pagare la TASI prendiamoci un attimo di leggerezza con lo sport. Dobbiamo commentare un doppio 2-0, Roberta. Parliamo da quello più pesante, che è quello dell'Empoli in vantaggio sul Milan. No. Il diavolo, veramente 20 minuti infernali finora per i rossoneri ad Empoli. Toscani subito in vantaggio al 12° con un colpo di testa di Tonelli su calcio d'angolo. Il raddoppio dei padroni di casa al 20° con Ciccio Tavano su un bello schema su punizione, ma in almeno... Cioè Empoli 2-0 sul Milan. Esattamente, Empoli 2, Milan 0 e Empoli che tra l'altro in almeno altre due occasioni è andato vicinissimo al gol prodigioso e almeno un paio di parate di Abbiati, quindi veramente agguerrito l'Empoli. Serataccia finora per Super Pippo Inzaghi, chissà cosa starà dicendo il padron Berlusconi davanti alla TV. 2-0 anche per l'Italia della pallavolo, come abbiamo detto più volte, oggi sono scattati i mondiali che ospitiamo, siamo il paese ospitante, a Roma al Palaeur, pala lottomatica, anzi Italia in vantaggio per 2-0 sulla Tunisia, 25-11, 25-13 parziali, insomma è un esordio soft per le azzurre che puntano al podio, staremo a vedere, finalissima a Milano il 12 ottobre, il cammino è ancora lungo. Posso esprimerti un encomio, Dario Ricci? No, troppo buona. Sì, perché tu hai parlato di mondiali di pallavolo, non hai specificato mondiali di pallavolo femminile, perché di solito quando si parla di calcio, della nazionale o di mondiale, si intende il maschile senza specificarlo, quando invece si specifica è quello, diciamo, meno importante come ritenuto. No, questo anzi tra l'altro è sentitissimo perché lo ospitiamo e quindi ci teniamo a far bella figura con le nostre ragazze che l'hanno vinto nel 2002, quindi sarebbe graditissimo un bis. Tra l'altro devono anche riscattare il flop degli uomini nei recenti mondiali polacchi. Un'ultimissima notizia di cronaca, veramente piove sul bagnato per il Milan, perché si è fatto male anche Van Ginkel, l'olandese all'esordio del colpo di testa dell'Empoli che quasi sfiora il 3-0. Guarda, è meglio che attacco, se no te la racconto tutto in diretta. Vabbè, poi richiama se succede qualcosa di nuovo, che già il risultato mi pare alquanto inconsueto. Evidentemente l'Empoli insomma è bello carico questa sera. Intanto siete carichi anche voi, carichi, ci sono i messaggi, il 349-238-6666, che potete continuare a scrivere sui vari argomenti, la pagina Facebook di Effetto Notte, però intanto aggiorniamo chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, ve le sintetizzo adesso le notizie e poi sentiremo che cosa ha combinato Renzi oggi a New York nella sua seconda tappa negli Stati Uniti. Pedofilia, il Papa fa arrestare un arcivescovo in Vaticano e l'ex nunzio polacco Wesolowski preso dalla gendarmeria. La minoranza del PD sulla riforma del lavoro sfida Renzi, articolo 18 ai neoassunti, propone dopo 3 anni e Padova intanto dice un dibattito paradossale. Primi raid contro l'ISIS in Siria, Obama dice non è solo la nostra guerra, sventato dice un attacco all'America. Il Parlamento si sblocca sul Consiglio Superiore della Magistratura, sì a Balducci Zanettin, resta invece lo stallo sulla Consulta. E poi Bonanni che a sorpresa lascia la segreteria della CISL, la buona notizia dall'estero libera alcune liceali rapite in Nigeria da Boko Haram, ma per il momento è giallo su militari nigeriani che ritrattano. E poi la partita, avete sentito, Empoli-Milan, per il momento Empoli 2-0 sul Milan. E saluto adesso direttamente da New York Gerardo Pelosi, inviato del Sole 24 Ore. Ciao Gerardo. Buonasera a voi. Oggi ne ha fatte un po', diciamo, Renzi, nel senso che ha partecipato al vertice dell'ONU sul cambiamento climatico e poi, anche se diciamo che a 24 anni dagli impegni che erano stati presi nel vertice di Rio de Janeiro, la concentrazione di CO2 è da brivido un po' in tutto il mondo, alluvioni e uragani sono un po' all'ordine del giorno, e non so quanto sia stato fatto, ci dirai Renzi che cosa ha detto di concreto, ma poi c'è il fatto che Renzi ha avuto l'occasione di molti incontri bilaterali col presidente turco Erdogan, poi col segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, con la presidente del Cile Michelle Bachelet, ha pranzato con re di Giordania, poi mi pare che abbia visto i Clinton anche il pomeriggio, un sacco di incontri, Gerardo. Ancora no, i Clinton praticamente l'incontro è previsto tra mezz'ora, alle 4 meno un quarto ora locale, ma la giornata poi non è finita perché qui appunto sono le 3:30 e questa sera dopo i Clinton ci sono 2 ricevimenti, quelli classici che si tengono sempre nell'apertura dell'Assemblea Generale, e cioè quello offerto da Obama, dal Presidente degli Stati Uniti Obama al World of Astoria, e quello del Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon. Ma la novità al di là del cambiamenti climatici, una sessione che è stata anche copresieduta da Renzi, dove Renzi ha parlato, ha detto che appunto occorre rendere operative, rendere concreti tutti questi impegni che rimangono sulla carta, anche per dare, come dire, segnali concreti ai giovani, ai nostri figli e anche alle varie imprese che puntano a creare questi milioni di posti cosiddetti green jobs, posti di lavoro creati dall'economia verde. Al di là di questo, la sua prima, l'esordio nel Palazzo di Vetro di Renzi è avvenuto in maniera quasi contestuale con le dichiarazioni di Obama nella lotta contro l'ISIS, questa non è una guerra soltanto americana, e con i primi raid americani in Siria. Renzi ha capito subito che si doveva fare qualche cosa di più, che le dichiarazioni troppo prudenti degli ultimi giorni del ministro degli esteri Mogherini, cioè l'Italia che non avrebbe partecipato ai bombardamenti, potevano apparire come una chiusura, un tirarsi via, uno sfilarsi dalla coalizione, e quindi da qui invece un impegno maggiore in contemporanea con le dichiarazioni del ministro della difesa Pinotti a Roma, che appunto ha annunciato che l'Italia metterà a disposizione un aereo di rifornimento e degli addestratori, molto poco si dirà, ma un primo passo per, come dire, dare quell'aiuto logistico che è fondamentale in tutte queste missioni. E quindi che cosa ha fatto dire Renzi ai suoi comunicatori? Che l'Italia sempre fa parte della coalizione, non si sfilerà, e che diciamo, è stato anzi lui proprio il primo leader occidentale ad andare a visitare Baghdad già alcune settimane fa, in agosto, andare a Erbil, vedere il dramma di questi profughi, e quindi diciamo che l'Italia non si tirerà indietro in una coalizione occidentale contro l'ISIS, e che quindi anche noi sentiamo, dobbiamo avere il dovere di sentire come nostra questa battaglia. Poi gli incontri che tu hai citato, sicuramente il presidente, il primo ministro turco Erdogan, il presidente del Cile Bachelet per parlare dell'empowerment femminile, la colazione con il re di Giordania, e quindi ovviamente i temi sono stati, oltre alla Siria e all'Iraq, anche quello della Libia, con un risvolto molto importante per noi che è quello del contenimento dei flussi migratori. Grazie Gerardo Pelosi, un sacco di cose, grazie da New York. E adesso vorrei invece provare a sentire se riusciamo a sentire un pezzettino di Crozza sulla 7 di martedì con Floris, vediamo cosa dice. Sto pensando che il governo Renzi è il primo governo di sinistra che ha più consensi a destra che a sinistra. La trasversalità, come si dice? Spiego. Dunque, bravo Renzi. Sì, faccio Brunetta perché mi piace Renzi. Avanti così, anche se sono di destra. Spiego. Dunque, il governo Renzi arrivava da sinistra, poi si è scontrato con i voti che arrivavano da destra. Nel frattempo ha avuto un sinistro con la sua minoranza che veniva da sinistra e che voleva superare la destra, ma non da sinistra, da destra, da sinistra. Non è, non lo so, non è un governo, è un incidente. Insomma, un po' di confusione, ma l'ha descritto abbastanza bene e Crozza. E sull'argomento ci rimaniamo. E ritorniamo adesso sul tema più caldo, più acceso dell'agone politico, il lavoro, l'articolo 18, che poi è anche il tema più urgente per quanto riguarda il nostro paese, visto l'altissimo tasso di disoccupazione, la crisi economica. Nel PD ci sono state profonde spaccature, si sa che i sindacati anche hanno minacciato lo sciopero, però diciamo che il confronto più acceso, più dilaniante proprio all'interno del Partito Democratico. Adesso sembra che ci voglia essere, insomma, un confronto, e la minoranza del PD, la sinistra del PD, che è quella che ha criticato più duramente l'articolo 18, l'intenzione di superarlo, ha presentato 7 emendamenti alla delega sulla riforma del lavoro. Sinistra del PD si intende l'area riformista, sinistra Dem, come si chiamano i civatiani, però un'anima, un grande rappresentante della sinistra del Partito Democratico è sicuramente Gianni Cuperlo, che saluto. Buonasera onorevole. Buonasera, grande, mi imbarazza, non direi. Era il contendente, buonasera, di Renzi, buonasera. Senta, allora, questi 7 emendamenti in cosa consistono? Immagino che siano soprattutto intorno appunto alla questione dell'articolo 18, l'articolo che dovrebbe tutelare i lavoratori da licenziamenti discriminatori, no? Non esclusivamente, mi faccio fare solo una premessa telegrafica. Certo. Nessuno vuole rallentare i tempi della riforma. Nessuno vuole lasciare le cose come stanno. Questa immagine che ci sia una parte del Partito Democratico che vuole cambiare le cose, un'altra parte che resiste perché tutto sommato apprezza di più lo stato di cose esistente, non ha un riscontro nella realtà. Io personalmente sono convinto, profondamente convinto, che ci sia la necessità di una riforma coraggiosa e anche radicale del nostro mercato del lavoro, sia in termini di uno spostamento di risorse dalle politiche passive alle politiche attive, formazione, inserimento, orientamento, sia sotto il profilo della estensione delle tutele esistenti a chi oggi non ne gode, non ne ha diritto, e di una universalizzazione dei diritti. Naturalmente servono le risorse, questo è un primo emendamento che va nella direzione di dire che bisogna garantire che quei diritti estesi a tutti abbiano una copertura anche dal punto di vista finanziario, e poi bisogna rendere contestuale l'inserimento del contratto a tutele crescenti con uno svolgimento di quella giungla contrattuale che noi conosciamo, che conoscono soprattutto i lavoratori precari, che non ha uguali in altri paesi d'Europa. E poi ancora bisogna perimetrare e fissare anche dei criteri per l'utilizzo dei voucher e poi fissare meglio i contenuti della cosiddetta, del cosiddetto demansionamento e favorire anche un'attivazione delle forze sociali nella trattativa sul merito. E potrei andare avanti con una serie di riferimenti legati anche a emendamenti che sono già stati approvati dalla Commissione Lavoro, penso all'estensione dei contratti di solidarietà e alla ridistribuzione delle ore lavorate sul modello dell'accordo della Electrolux o all'importazione dal sistema francese delle ferie solidali e via e via e via. Il problema sono davvero le risorse e anche la volontà di colmare il gap italiano, che non è l'articolo 18, e su questo penso che tutti sono d'accordo, imprenditori, sindacati, e dentro al PD nessuno dice che il problema del mancato sviluppo, della crescita bloccata del nostro paese è lì. E il problema è nel fatto che sulle politiche di investimento per i servizi all'impiego la Germania spende 9 miliardi all'anno e noi 500 milioni. E il problema è che abbiamo un deficit di investimenti in quel settore. Allora lavoriamo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, fino alla direzione di lunedì prossimo, per migliorare questa riforma. Lo spirito che almeno muove me in questa fase è unire il PD per migliorare questa riforma. Nessuno lavora per dividere il PD e peggiorare la riforma. Questa è davvero una caricatura. Però Gianni Cuperlo, lei dice l'articolo 18 nessuno pensa all'interno del PD che sia quello il fulcro di tutto, però è su questo che si infiammano gli animi soprattutto, no? Allora c'è chi ha fatto l'ipotesi di un, molti ne parlano in realtà, di un regolamento di conti all'interno del PD sottostante a questa questione dell'articolo 18, e chi dice invece che invece è un regalo offerto al nuovo centrodestra, visto che fa parte della maggioranza e che bisogna accontentarlo, tra virgolette, si dice. Ma no, non è così, nel senso che io penso che su una discussione di questo genere è molto importante stare al merito. È stato già modificato in modo significativo, cioè non banale, dal ministro Fornero nel 2012. Il problema è di stabilire e di scrivere nero su bianco nella nuova legge delega e poi successivamente nella delega che alcuni principi non sono in discussione. Il fatto che si introduca il diritto pieno alla reintegra nel caso di licenziamenti per discriminazione, parliamo di discriminazioni per l'orientamento politico, sindacale, il religioso, l'etnia, il genere, l'orientamento sessuale. E il governo dice sì, è scontato che rimarrà così, scriviamolo. Per quanto riguarda il licenziamento disciplinare, a volte si ha l'impressione anche di non avere la conoscenza del problema in sé, ma con la riforma del 2012 già oggi il giudice, di fronte al fatto che riconosca la non legittimità, la non sufficiente motivazione del licenziamento disciplinare, può decidere per la reintegra o per l'indennizzo. Vogliamo arretrare anche rispetto a questa soglia? Non è un tabù, non è una battaglia ideologica, si dice che sono piccoli numeri, poche migliaia di casi all'anno, questo potrebbe dire allora perché fa così tutto il dibattito, però attenzione, perché il fatto che siano pochi numeri, piccoli numeri, è anche legato al fatto che la norma ha avuto storicamente un effetto deterrente, e allora dietro questa discussione c'è un pezzo della dignità del lavoratore, cioè una questione di principio. Ho appena detto che la riforma va fatta con coraggio, con radicalità, servono risorse, serve il coraggio di cambiare più di quanto non si sia fatto in passato, e su questo il governo avrà il pieno sostegno. Cerchiamo l'unità al nostro interno e troveremo anche la quadra giusta. L'ultima cosa, onorevole Cuperlo, il capogruppo del nuovo centrodestra al Senato, Sacconi, ha detto che i 7 emendamenti presentati dalla minoranza PD sono irricevibili. Se non si trovasse quindi un accordo, che cosa intende fare lei, Gianni Cuperlo, ma insomma la parte di sinistra del PD? Questa è una domanda che dal punto di vista giornalistico è perfettamente legittima, anzi io al suo posto l'avrei fatta come lei me l'ha appena fatta. Però mi consenta di dirle sì, che in questo caso davvero conviene procedere con senso di responsabilità. Le ho appena detto, sono davvero convinto di questo, che vogliamo lavorare, io voglio lavorare per trovare una mediazione convincente, per migliorare questa riforma, per renderla più efficace. Abbiamo una discussione importante lunedì prossimo alla direzione del PD, ci saranno poi i gruppi parlamentari che si riuniranno. Io spero, mi auguro che alcuni di quegli emendamenti vengano accolti, perché vanno nel senso di rendere più efficace l'azione del governo e la riforma. E tanto al dopo, discuteremo dopo. Bene, allora discuteremo dopo, del resto speriamo allora che le cose vadano nel verso giusto, che ci sia una mediazione. Grazie, buon lavoro. Grazie intanto, Gianni Cuperlo. Buonasera. Grazie, buonasera. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi, vedo i vostri messaggi al 349-238-6666. Qualcuno che dice, per esempio, a proposito degli attacchi a Renzi: Daniela D'Alema trama, si dovrebbe vergognare, il PD non è mai andato contro Monti ma va contro Renzi, basta, se ne devono andare questi vecchi, dice Daniela. Poi altri messaggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, però vi riassumo le notizie anche perché c'è forse qualche novità sul calcio. Pedofilia, è stato arrestato l'ex arcivescovo polacco Wesolowski. Il fermo sarebbe avvenuto su indicazione di Papa Francesco. La lotta contro l'ISIS, raid americani e degli alleati arabi in Siria. Obama sottolinea, non è solo una guerra americana. E poi il vertice sul clima all'ONU. I cambiamenti climatici, dichiara Obama all'Assemblea dell'ONU, sono la prima minaccia del secolo, e Renzi assicura che l'Italia è pronta a dare il suo contributo. Ebola, allarme degli Stati Uniti. Entro il prossimo gennaio i casi di Ebola in Africa occidentale potrebbero raggiungere quota 1,4 milioni. E la notizia che arriva dalla Nigeria, sarebbero libere alcune delle liceali rapite dagli integralisti di Boko Haram. Anche questa è una notizia data dalla BBC, anche se poco fa sembrava mistero che i militari ritrattassero questa notizia. Per la riforma del lavoro, avete sentito poco fa Gianni Cuperlo, continua il confronto scontro sull'articolo 18 sulla riforma. La minoranza PD ha presentato 7 emendamenti. E poi la CISL, Bonanni lascia la guida del sindacato, domani l'addio. Per il calcio, Dario Ricci, ci eravamo lasciati con Empoli che batteva 2-0 il Milan. Al momento invece è finito il primo tempo, anzi sta per iniziare quasi la ripresa, e il Milan ha accorciato le distanze perché dopo le due reti di Tonelli al 12esimo e al 20esimo di Tavano per l'Empoli è arrivato al 42esimo il 2-1 rossonero con Torres all'esordio dal primo minuto, il cross dalla destra di Abate, il bel colpo di testa del Nino e il gol del 2-1 che riapre la sfida. Sfida chiusa invece per le azzurre della pallavolo all'esordio mondiale a Roma, netto 3-0 per l'Italia di Bonitta sulla Tunisia, 25-11, 25-13, 25-8, Roberta, questi parziali, diciamo l'impegno era certo non dei più difficili, ma siamo partiti col piede giusto. E siamo contenti. Grazie Dario Ricci, a dopo. Ora invece parliamo dei raid che sono cominciati sulla Siria, raid aerei da parte degli Stati Uniti e non solo, perché Washington dopo quello iracheno ha aperto un nuovo fronte sulla guerra contro lo Stato Islamico, il cosiddetto ISIS di cui si parla tanto, che fa così tanta paura. Le forze statunitensi e 5 alleati arabi, cioè il Bahrain, l'Arabia Saudita, il Qatar, la Giordania e gli Emirati Arabi, hanno lanciato appunto questi primi attacchi contro le postazioni dell'ISIS in Siria. Non tollereremo chiunque cerchi di colpire gli Stati Uniti, ha detto Barack Obama, spiegando che la scelta di colpire il territorio siriano è stata fatta per sventare un attentato contro il suolo americano o quello europeo. Chiedo allora di aiutarci a comprendere che cosa sta avvenendo ad Andrea Margelletti, che saluto. Ciao Andrea, bentornato. Grazie a te, naturalmente grazie per l'ospitalità e un saluto ai tuoi ascoltatori. Angeletti, che è presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali. Andrea, quindi intanto non so se si possa parlare di un'alleanza inedita. Ci sono paesi arabi che vogliono combattere l'integralismo islamico. Questo perché? Ci sono degli accordi particolari con gli Stati Uniti? C'è della dietrologia, oppure perché ritengono che l'integralismo islamico faccia male all'Islam? No, perché è un problema legato alle redini. Per molto tempo alcuni di questi paesi hanno allevato, supportato, coccolato questi gruppi, pensando che facendoli stare fuori da casa loro in una qualche maniera avrebbero evitato un rischio interno, e poi invece le redini si sono sfilacciate, sono diventate sempre più lunghe e, se mi passate un termine, di liquidazione, il cavallo è diventato scosso e quindi hanno iniziato a diventare totalmente autonomi, come l'ISIS, che non è, chiamarlo un gruppo terroristico è diminuente. No, è semplicistico, perché è una realtà unica nello scenario, direi storico, se mi passi il termine, perché prima di tutto amministra il territorio. Sotto il controllo dell'ISIS ci sono alcuni milioni di persone, è una realtà che utilizza i milioni di dollari che quotidianamente ottiene attraverso il traffico illegale del mercato nero del petrolio per fare stato sociale e quindi per costruire ospedali, per fare scuole, per amministrare la cosa pubblica, per raccogliere consenso insomma dalle popolazioni. Esattamente sì. E quindi diciamo, i governi del Golfo, che diciamo che nel momento in cui davano le lezioni di democrazia erano tutti a rispondere al citofono, si sono onestamente preoccupati del mostro che avevano contribuito a creare. Tra l'altro leggevo che sarebbe salito a circa 3.000 il numero di combattenti europei in Siria e in Iraq, quindi riescono ad avere anche adepti raccolti in Europa. Questa è anche una cosa grave, 3.000 sono abbastanza, anche se forse è anche un numero sottovalutato, in difetto. In Europa, ma anche negli Stati Uniti. Il vero problema è che questi gruppi riescono ad attrarre, questi gruppi che hanno una politica modernissima, che hanno un approccio mediatico modernissimo, noi rimaniamo inorriditi, feriti, violentati da certe immagini che gruppi come l'ISIS promuovono e diffondono, ma dobbiamo essere altrettanto onesti da dire che ci sono anche persone che di fronte a questi video plaudono all'immagine dell'americano, dell'inglese, quindi il colonizzatore per antonomasia, che è in ginocchio di fronte all'arabo che per centinaia di anni ha subito lo scarpone occidentale, lo sto dicendo naturalmente in maniera provocatoria. E questo in una qualche maniera mostra come alcune politiche di integrazione in Occidente sono state fallimentari e che non siamo stati in grado di dare buone risposte, forse anche a pessime domande. Ma infatti, Andrea Margelletti, tu dicevi i paesi arabi adesso intervengono perché si sono accorti di aver perso il controllo di un mostro che hanno creato loro stessi, ma gli Stati Uniti anche loro non hanno saputo valutare il rischio finora, perché sono arrivati a intervenire in un momento in cui appunto la bomba esplosa, no? O il vaso di Pandora si è aperto, come vogliamo dire. Guarda, il problema è che i governanti occidentali, e non soltanto gli Stati Uniti, tendono a risolvere i problemi con il respiro loro politico, che è quello di un'amministrazione o di una legislatura, quindi molto poco. E questo fa sì che si spinga sempre più per l'intervento militare, che sembra la panacea di tutti i mali, e che invece deve essere assolutamente inserito in un quadro di strategia politica. Perché le vittorie sono sempre politiche, non sono mai militari o esclusivamente militari. E questo fa sì che noi si faccia un intervento, poi chi se ne frega che quali saranno le conseguenze, tanto lo passa al governo dopo, io faccio bella figura a questo giro. Nella realtà dei fatti poi si vanno a creare dei mali assoluti, basti pensare all'accordo Sykes-Picot della fine della Prima Guerra Mondiale, che ancora adesso è il male attraverso il vulnus assoluto del Medio Oriente, o all'eterno problema israelo-palestinese, la cui mancata risoluzione costituisce per moltissime realtà, da una parte o dall'altra, una sorta di scusante ideologica per fare delle nefandezze. Ultima cosa, Andrea Margelletti, adesso questi raid aerei, questi bombardamenti degli Stati Uniti e degli alleati arabi, so che non hai la sfera di cristallo, ma che cosa potranno risolvere o implicare, insomma? Ma certamente bloccheranno l'avanzata di ISIS in molte parti, indiscutibilmente ne ridurranno in maniera forte le proprie capacità di manovra sul territorio, ma ripeto, qua stiamo parlando di una realtà che domina su milioni di persone. A un certo punto qualcuno dovrà riempire, ammesso non concesso che l'ISIS imploda, dovrà riempire questo vuoto, e questo vuoto può soltanto riempirlo il governo iracheno, perlomeno nella parte irachena. Se noi non avremmo centrale come attore il governo iracheno, supportato da una coalizione ampia con tutti gli attori regionali, non soltanto i paesi sciiti e sunniti, ma anche l'Iran sciita, che era sotto il convitato di pietra, tra due mesi o fra due anni io sarò lietissimo di essere nuovamente ospite della tua trasmissione, ma mi toccherà ripetere le stesse cose che abbiamo detto oggi. Ma insomma, per altri motivi spero di riaverti prima, Andrea Margelletti. Intanto grazie molte per il tuo intervento. Vi leggo, ciao. Ciao Andrea, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Adesso ve li riassumo brevemente. Tra l'altro arriva una notizia mentre stavamo parlando proprio di ISIS e dei raid americani. La minaccia di ISIS è seria, dice il ministro dell'interno Alfano, e il livello d'allarme è alto. Non trascuriamo nessun dettaglio, nemmeno il più tenue, ma non c'è una precisa indicazione di minaccia specifica, ha detto Alfano Ballarò. Il nostro paese è pronto al contrasto, ma non ha indicazioni di pericolo. Poi delle altre notizie avete sentito, dell'arresto in Vaticano voluto da Papa Francesco dell'arcivescovo polacco Veselowski, preso dalla gendarmeria per pedofilia, e poi la minoranza del PD che sfida Renzi sull'articolo 18 e propone 7 emendamenti che verranno poi discussi. Primi raid contro l'ISIS, l'abbiamo detto, il Parlamento che si sblocca sul CSM e invece ancora stallo sulla consulta. Bonanni, che il leader della CISL che a sorpresa lascia, domani c'è l'addio, dovrebbe succedergli collega Anna Maria Furlan in pole position. E poi per il calcio abbiamo sentito prima che il Milan aveva rimontato di un gol, nel senso che contro l'Empoli 2-1 per il momento per l'Empoli, e poi la pallavolo femminile. Ma adesso è il momento dello spazio europeo. Europa 24 notte, in cui si torna a parlare di Ebola, perché sono 2.811 morti provocati dall'epidemia in Africa occidentale. Ne abbiamo parlato anche ieri, lo afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità nell'ultimo bilancio, secondo le quali le persone colpite sono in totale 5.864. E poi, se non c'è un cambiamento, dice il Center of Disease Control and Prevention americano, l'ente nazionale americano che si occupa di sanità pubblica, se non verranno prese misure adeguate, entro la fine di gennaio i casi di Ebola in Liberia e Sierra Leone potrebbero pure arrivare a 1.400.000. Questa è l'emergenza che è stata tra i temi centrali del vertice dei ministri della salute europei che si è tenuto ieri e oggi a Milano. Sentiamo allora cosa ci racconta la nostra inviata Roberta Pellegatta. I said, and I will repeat also today, that the risk remains low. Lo ribadisce subito il commissario europeo per la salute Tonio Borg. Il rischio che Ebola si diffonda in Europa è basso. Tuttavia, sottolinea, dobbiamo rimanere vigili, non abbassare la guardia. Il commissario UE parla nella conferenza conclusiva del meeting informale dei ministri europei della salute che si è chiuso oggi a Milano e che ha avuto l'emergenza Ebola tra i temi centrali. Per affrontarla l'Unione ha già previsto 140 milioni di euro in aiuti per progetti diretti ai paesi africani. Ora l'obiettivo, spiega il ministro della salute Beatrice Lorenzin, che ha presieduto il meeting, è il coordinamento dei paesi membri in caso si debba evacuare qualche cittadino che magari perché in missione in Africa dovesse risultare contagiato. Noi abbiamo fatto un censimento, abbiamo valutato quelle che sono le possibilità che abbiamo a livello europeo, i posti letti disponibili per accogliere i nostri pazienti europei che potrebbero ammalarsi nelle attività di cooperazione, abbiamo valutato i mezzi a disposizione che abbiamo per il trasporto aereo e soprattutto da quasi tutti i paesi è venuta forte l'esigenza di incentivare invece la realizzazione di misure sul campo, cioè là nei paesi dove si sta sviluppando il virus, sia di formazione, di educazione, di sostegno sanitario e di realizzazione di strutture in grado di tenere l'accoglienza. Tra gli altri temi sul tavolo del summit di Milano, organizzato nell'ambito della presidenza italiana per il semestre europeo, anche la lotta contro il cancro. Per contrastarlo, l'Europa punterà sulla prevenzione e su uno stile di vita sano da insegnare sin dalla scuola elementare, spiega il ministro Lorenzin. Si è fatto un po' il punto della situazione sulle strategie contro il tumore affrontate dall'Europa tutta negli ultimi anni, con dei grandissimi passi avanti, come la direttiva tabacco, quindi le misure per scoraggiare l'utilizzo del tabacco nella popolazione, la lotta contro l'obesità, corretti stili di vita, una corretta alimentazione e il tema delle vaccinazioni. L'Europa ha come obiettivo quello di abbattere il numero dei malati di tumore del 15% entro il 2020, l'annuncio del commissario Borg. We need to reduce the number of smokers in Europe by 2% over the next. Obiettivo, spiega sempre il commissario europeo alla salute, che va di pari passo con quello di ridurre il numero dei fumatori europei del 2% in 5 anni, una diminuzione pari a 2.400.000 fumatori. In primo piano, nel mondo della salute europeo, anche i farmaci innovativi, salvavita in molti casi, ma ancora costosissimi e per lo più inaccessibili, come quelli che curano l'epatite C, di cui in Europa soffrono almeno 5.200.000 persone. Emerge una necessità, pur nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza di ogni singolo Stato membro, di omogeneizzare gli interventi, di scambiarci informazioni e di lavorare soprattutto sulla formazione del prezzo, che è una delle cose che ci è stata più richiesta. cioè il fatto di avere prezzi che siano sostenibili. Tutti i paesi membri hanno segnalato la necessità di trovare dei modelli di persuasione per abbassare i prezzi. Tutti i paesi membri ritengono infine di fondamentale importanza la creazione di una rete europea per le cure palliative e la terapia del dolore, attraverso un maggiore impegno sulla formazione dei professionisti, lo scambio di informazioni reciproche, soprattutto relativi alle migliori pratiche e allo sviluppo dei network. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. Colleghiamoci adesso con Dario Ricci per capire se il Milan è rimasto 1-2 con l'Empoli o si è dato così un impulso di orgoglio, Dario? Ah, adesso siamo all'inizio del secondo tempo, Roberta, scattato proprio da un minuto, siamo ancora sul 2-1, ma chiaro, Milan che è tornato in campo con tutt'altro piglio, soprattutto rispetto alla mezz'ora da tregenda che ha vissuto all'inizio, già sul finale del secondo tempo, come raccontavamo nel precedente collegamento. Ha accorciato le distanze il Diavolo grazie al colpo di testa, all'inzuccata di Torres, e ora si lancia nella metà campo dell'Empoli per tentare di acciuffare almeno il pareggio. Ricordiamo Toscani avanti per 2-1, che a questo punto potranno magari approfittare di qualche contropiede, anche se Abbiati questa sera, devo dire, a parte i due gol su cui non ha colpe specifiche, in più di un'occasione ha già salvato la sua porta e quindi ha reso dura la vita agli attaccanti dei padroni di casa. Diciamo la verità, Dario, che questa partita si riteneva, forse anche tu all'inizio, da giocare un po' occhi chiusi per il Milan, invece è stata una sorpresa, no? Questa Ma in realtà, diciamo, è un po' vista come la prova del 9 per il Milan di Inzaghi, perché dopo la sconfitta con la Juventus, in una partita dove il Milan comunque aveva soprattutto contenuto e giocato di rimessa, così come gli viene più facile, contro l'Empoli invece, che è una neopromossa, il Diavolo è chiamato un po' a farla la partita e quindi si espone chiaramente a delle sbavature, ed uso un eufemismo, difensive, che sono un po' nel DNA dei rossoneri e che chiaramente contro squadre più forti Inzaghi riesce a mascherare meglio. E poi, come ben sai, c'erano stati già i primi appunti di Berlusconi, che si era lamentato del fatto che non venissero seguite le sue indicazioni tali a Milanello, e quindi insomma stasera un'eventuale sconfitta sicuramente qualche strascico lo lascerà in classifica e non solo. Senti Dario, in attesa di vedere come va a finire, invece era finita, ci dicevi, la partita delle azzurre della pallavolo con la Tunisia 3-0, quindi un buon esordio. Sì, devo dire partita in scioltezza, 25-11, 25-13, 25-8 i parziali. Si sapeva che sarebbe stato così, perché chiaramente un po' come padrone di casa abbiamo avuto questo piccolo vantaggio di un esordio soft, però chiaramente Bonita ha approfittato anche dell'occasione per ruotare tutta la squadra e permettere anche alle tante esordienti a questo livello della nostra formazione di mettersi alla prova, di rompere il ghiaccio con il mondiale, perché gli ostacoli ben più difficili arriveranno già da domani, quando affronteremo la Croazia. E domani allora ci aggiorniamo con la Croazia e con l'Italia. Grazie Dario Ricci, noi ci fermiamo per sentirci tra poco.